723. Siroppo di lampone. La delicata fragranza di questo frutto, il framboise dei francesi, lo costituisce il re dei siroppi. Dopo aver disfatto bene il frutto con le mani, si opera nella stessa guisa del numero 725. Con le stesse proporzioni di zucchero ed acido citrico, se non che contenendo questo frutto meno glutine del ribes, il periodo della fermentazione sarà più breve. Se poi mi domandaste perché questi siroppi richiedono tanto zucchero, risponderei che ciò è necessario per la loro conservazione e che per correggere il soverchio dolciume si è ricorso all'acido citrico. 724. Acetosa di lampone. Questa acetosa si forma sostituendo all'acido citrico aceto di vino d'ottima qualità che va versato nel siroppo di lampone quando si leva dal fuoco. La dose dell'aceto regolatela con l'assaggio, ponendone cioè poco dapprima ed assaggiando il siroppo in due dita d'acqua per aumentarne la dose al bisogno. Questa bibita riescirà più rinfrescante delle altre ed egualmente piacevole.